Con noi l'artista Ilaria Drago per parlarci di un progetto di spettacolo piuttosto articolato. Intanto, Ilaria, ben ritrovata. Ciao, ciao Federico, ciao, è un piacere. Allora, è un piacere averti di nuovo con noi. Raccontiamo un po', facciamo intanto una panoramica su quello che rappresenta quest'idea e poi parleremo anche delle varie tappe. Sì, allora, questo progetto si chiama Migrazioni, cambiare la fine, senza confini, Antigone non muore, un titolo un po' lungo, ma in realtà dice già tutto per me, ed è un progetto che attraverso le parole di Antigone in realtà si fa portavoce dei diritti umani. La storia parte dalla fine della storia in realtà di Sofocle, della tragedia di Sofocle, e quindi comincia dalla grotta, dal carcere dove è detenuta fino alla sua morte Antigone. In realtà poi si vedrà che non morirà, insomma, tante, tante cose. È un progetto che in qualche modo rompe i confini già nel suo lavoro, nella sua preparazione, perché a questo lavoro intervengono tre paesi europei, che sono il nostro, l'Italia, e la Repubblica Ceca e la Francia. Perché intanto si fa dentro una imponente opera d'arte che pesa 480 kg di ferro, veramente una struttura molto, molto bella. È un'opera d'arte di Mikuláš Rakić, praghese. E poi il lavoro viene accompagnato dal danzatore e coreografo Claude Goldi, e lavoriamo sulle musiche di Stefano Scatozza. E quindi ecco, già c'è una bella ricchezza e c'è una bella collaborazione, insomma. E poi è un lavoro che sarà in qualche modo multidisciplinare, appunto, perché oltre all'opera d'arte in sé lavoreremo col corpo, c'è un lavoro sulla voce, ci sono le musiche di Stefano sia dal vivo che composte precedentemente, e ci saranno le luci anche di Max Mugnai, che insomma è un grandissimo disegnatore luci che sa sempre fare dei quadri scenici, insomma. E in scena ci sarò io e anche un mio giovane attore che si chiama Andrea Peracchi, e che sarà questo Polinice Ombra nella grotta. Bene. Allora, Ilaria, tutto è partito a fine dicembre con una campagna di crowdfunding che andrà avanti fino a marzo. Sì, è una campagna di crowdfunding per riuscire a sostenere in realtà tutte le spese che, insomma, sappiamo sono sempre onerose, di allestimento, di acquisto dei materiali e di pagamento proprio del nostro lavoro, e quindi, insomma, ci serve proprio un sostegno. È molto semplice perché, diciamo, basta anche andare sul mio sito, che è www.ilariadrago.it, e da lì sull'home page si vede già linkata, insomma, si può linkare immediatamente cioè, si può linkare alla pagina di crowdfunding, Di produzioni dal basso. di produzione dal basso, esatto. E lì come funzionano ora queste campagne di produzioni dal basso? Ci sono delle donazioni, ci sono delle ricompense, vengono chiamate, ma soprattutto è un modo, secondo me, molto bello di sostenere un progetto e di viaggiare insieme a un progetto nella costruzione di questo lavoro. E in realtà è già cominciata la partecipazione del pubblico, perché durante le prove è iniziato a venirci a trovare, e quindi spieghiamo il progetto. Addirittura abbiamo proprio un guest book fotografico che sta già anche in linea, in rete, e tutti, insomma, tanta gente è salita proprio su questa struttura, quest'opera d'arte. Gli ho voluto proprio far sentire l'energia di quest'opera d'arte. È stato molto bello, ed è molto bello, insomma. Senti, la tappa successiva sarà una residenza, se non sbaglio. Sì, allora dal 2 maggio saremo in residenza ad Armonia, presso Armonia, a Castiglioncello, a Livorno, e lì lavoreremo per tutta l'ultima parte di messa a punto dello spettacolo. Ci saremo lì fino al debutto, insomma, fino a giugno. fino a fine giugno. Benissimo. E anche lì abbiamo questa idea di fare proprio questa mostra, quindi le persone se vogliono possono proprio organizzarsi e venirci a trovare prima del debutto. Bene, bene. Allora, poi le date saranno giugno-luglio 2018 al Festival in Equilibrio di Castiglioncello. Ilaria, i riferimenti ce li hai dati? A questo punto seguiremo anche noi le diverse tappe e quindi ci diamo appuntamento più avanti. Benissimo, sì, molto volentieri. Tra l'altro c'è proprio una pagina dedicata su Facebook dove stiamo proprio pubblicando un diario di bordo, quindi ci potete seguire veramente in ogni modo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille anche a te, ciao. Ciao.